dal niente fino ad essere uomo, arrivando fin qui. Forse inseguendo un'idea o qualcosa di più. Devi, devi, devi che vuoi e dammi pure di lei. Notte di corsa senza fiato, pagando prezzo salato. Scavami di più, graffia se lo vuoi. Ma quanta strada da fare per arrivare quassù. Dire, dire, dire di più può farmi male, lo so.